Sei convinto abbastanza, olà, risolvi a darti or la pena che tu stesso giudicasti conforme, benché minore assai del grande eccesso.